russo in cui praticamente si parlava di Chernobyl, si parlava dell'incidente, ma il tutto veniva attribuito a un'enorme antenna costruita dai sovietici in piena guerra fredda, che con le sue radiazioni, con le sue emissioni, gigantesca antenna costruita per captare le comunicazioni del mondo occidentale, che avrebbe agito come un trapano nei confronti del reattore di Chernobyl, distruggendolo, quindi non un errore umano, eccetera. Questo per dire quanto è vasta la fantasia, no? Che si produce intorno a queste cose, come diciamo altre anche, quindi quando si fa riferimento a Chernobyl, ci sono due modalità in cui viene presentata, a parte la storia dell'incidente oggi. Uno è quello diciamo compassionevole verso tutte le vittime e ancora oggi verso l'eredità che quell'incidente ha lasciato, soprattutto i bambini, per cui tutte queste cose qui. L'altro è di dannazione di tutto ciò che ovviamente riguarda l'ex Unione Sovietica, con narrazioni le più incredibili. Quindi difficilmente si scappa da questa diciamo schematizzazione, per cui nell'ipotesi appunto che questo possa servire a mantenere questa maledizione sul nome di Chernobyl, uno può pensare che ogni tanto qualcuno va a dare fuoco ai boschi perché così questo luogo deve rimanere maledetto. Ricordo che è diventato anche un luogo non dico di vacanza, ma di turismo un po' particolare tra il macabro e la cosa, perché l'anno scorso mi pare ci sono stati più di 70.000 visitatori provenienti da varie parti del mondo che vanno a vedere, no, questa situazione, quello che si può vedere nell'impianto da distante, ovviamente non ti fanno entrare dentro, però c'è anche insomma un minimo di struttura alberghiere, queste cose. Quindi è diventato anche, non dico un affare, ma comunque un'attività, si va a Chernobyl per provare un brivido, ecco, mettiamola così, che insomma si spiega da solo. L'altro discorso, viceversa, quello più proprio cinico, speculativo, è che si dà fuoco ai boschi come si dà fuoco ai boschi in Italia molto spesso, insomma, per speculazioni vere e proprie sul terreno, perché questi boschi non hanno colpito solo, anzi più che altro l'hanno lambita la zona di esclusione, con qualche diciamo è penetrata in una piccola parte, ma si sono sviluppati anche a 70 chilometri da Chernobyl, quindi in zone più lontane e più basse, poi viene tutto accumulato sulla stampa e l'incendio diventa solo intorno a Chernobyl, ma non è così, quindi c'è da mettere anche in conto questa possibilità che gli incendi di natura dolosa avessero come scopo quello che normalmente hanno gli incendi dei boschi, e cioè trasformare quella parte di terra terra da coltivare oppure da scopi edilizi, non lo so, insomma, ecco, scopi speculativi di questo tipo. Certo. Allora, noi non andiamo poi a riepilogare nei dettagli l'incidente dell'86, però ci piacerebbe farci raccontare da te come fu vissuto il post-catastrofe in Italia, visto che comunque anche l'Italia utilizzava le centrali nucleari per la produzione di energia, era una scelta fatta da uno Stato anche fortemente ostacolata dall'attivismo, e quindi che cosa è successo dopo Chernobyl nella lotta contro il nucleare e come è cambiata fino ad arrivare ad oggi? Chernobyl è sicuramente è uno spartiacque per moltissime persone, direi per la maggioranza delle persone in Italia, ma non solo. Io ricordo sempre quando si parla dei grandi movimenti del passato, che si fa riferimento al solito 68, altre cose, eccetera, eccetera, che l'unico vero movimento transnazionale che c'è stato sicuramente in Europa e anche in altre parti del mondo, ma direi senz'altro in Europa, è stato proprio il movimento antinucleare. Questo movimento che nasce